L'ospite di questa sera è un ospite internazionale, un cantante di fama mondiale. Si è esibito con Peter Gabriel, con tutti i più grandi cantanti italiani. Lui è stato uno dei fondatori del gruppo degli Intillimani, che con la loro musica hanno fatto da colonna sonora gli anni 70. La loro storia è cominciata in Sud America ed è arrivata prepotentemente in Europa a causa del golpe che c'è stato nel Cile nel 1973. In quel momento loro che si sono trovati casualmente in Italia vi sono rimasti e da lì, con la solidarietà del pubblico italiano, sono diventati famosissimi. La loro musica ha occupato tutti gli spazi musicali di quel periodo. Questa è l'intervista a Max Berru, che ci racconta la sua storia, la storia del Cile e la storia dell'Italia di quel periodo. Interessante a riascoltare e interessante a conoscere per chi non la conoscesse. Questa è una puntata di musica, di parole, di ricordi e anche una puntata drammatica. Un po' diversa dall'impostazione del nostro programma, ma il personaggio di oggi valeva la pena di essere raccontato. Io sono Max Berru Carrión, è nato in Ecuador, però sono andato in Cile l'anno 62, quando avevo 18 anni, per vedere il mondiale di calcio che si è svolto in Cile. Mi è piaciuto il paese, la gente, sono rimasto, ho studiato all'Università Tecnica dello Stato e mi sono laureato come ingegnere industriale. Quando eravamo studenti abbiamo creato una pegna folclorica, questi posti dove si suona musica folclorica. Ci abbiamo conosciuto lì quelli che abbiamo fondato l'Intillimani, l'anno 67. Però questa nascita del gruppo sta immersa in un periodo storico del Cile molto importante, perché la sinistra cilena, che era un 33%, ha pensato in lavorare fortemente per avere un governo socialista con Salvador Allende, che era il nostro candidato. E siamo riusciti a avere un governo socialista, che era un caso unico nel mondo, perché volevamo cambiare, diciamo, dal capitalismo al socialismo con questo governo, però è stato così difficile che gli americani chiaramente hanno finanziato il golpe militare, si sono alleati con la destra economica del paese e è successo quello che è successo, il golpe militare forse più crudele dell'America Latina. Come militante della gioventù comunista, fine settimana facevamo, visitando popolazioni povere, parlando con la gente, cantando, facevamo lavoro volontario dappertutto. La storia era nostra, noi stavamo nella corrente del fiume di questa storia. Non è che la storia ci ha passato di lato, no, noi facevamo la storia. E questa sensazione di costruzione del destino del paese per noi era una cosa bellissima. E così come è stato anche fortissimo quando ci trovavamo in Italia e abbiamo saputo del golpe militare. Era troppo brutto, fortissima questa notizia, questa desolazione dell'alma proprio che abbiamo superato con il lavoro e con la solidarietà, l'accoglienza degli italiani, che è stato molto importante per noi. Ricordo una visita che ho fatto prima del golpe a Vietnam del Nord. Il primo ministro Phan Van Dong ci ha ricevuto, questa delegazione piccola di 10 cileni, e lui ci ha detto: dovete essere forti e preparatevi, perché il golpe militare in Cile senz'altro verrà e sarà per a lungo. Questo ci ha colpito moltissimo, perché lui ha accertato proprio, no? Sicuramente loro sono dei politici che vedono oltre quello che vede una persona normale, no? abbiamo la fortuna di essere fuori, perché altrimenti magari avremmo finito come Víctor Jara, che Víctor Jara è un compagno nostro. Lui era della stessa cellula della gioventù comunista, militava con noi in Tilimani e altri due o tre artisti. È stato bestiale, perché lui è un cantautore. Quando era allo Stadio Cile, che era vicino alla università nostra, perché quando è successo il golpe ognuno ha detto: io vado al posto di lavoro per difendere la mia impresa, la mia istituzione, il mio posto. E lui è andato presto mattina, però vengono portati ammucchiati allo Stadio Cile, che è vicino, un campo sportivo chiuso, no? Che adesso si chiama Víctor Jara, perché lui è stato lì l'ultima volta che lo hanno visto vivo. Quattro giorni lì, quando svuotavano questo Stadio Cile per portarli allo Stadio Nazionale, dove si gioca il calcio, la gente de Civil, sicuramente erano de Patria e Libertà, un movimento dell'Opus Dei, con il dito ha segnalato questo, questo e questo. Sono salite della fila che andavano sul camion per andare all'altro stadio, e l'ultima volta che li vedono lì, due o tre giorni, penso che sia il 17 da settembre del 73, che arriva a casa un ragazzo e le dice alla moglie, a Joan Jara: deve venire con me, perché io penso che Víctor Jara è morto e so dove si trova, e lo ha portato. Lei parla e dice che cammina sopra i corpi dei morti, avanza per una galleria, sale un'altra, continua ad avanzare e lo trova finalmente a Víctor, che ha tanti buchi sul petto, sulle spalle. Che è inutile che la prensa dica è stato morto accidentalmente o come loro l'hanno fatto credere, facevano credere alla gente, no? Ogni morto diceva questo e si è confrontato con altri rivoluzionari e sono ammazzati. O simplemente dicevano questi sono andati fuori del paese e non ci trovano in Cile. Per noi è stato bruttissimo questo fatto di sapere che gli amici nostri sono stati morti, acribigliati, torturati. Sono tantissimi, guarda, Víctor è uno di loro. Io almeno conosco una centinaia di gente che è stata morta, no? Così. E questo fa una sensazione, non so, di angoscia, di impotenza, no? Io con Víctor Jara era molto amico, anche perché lavoravamo insieme alla stessa università. Abbiamo fatto due dischi con lui in Tilimani di Víctor Jara, lui veniva parecchio alle prove nostre. Ti racconto, ho avuto un sogno che era ricorrente. Ogni settimana almeno ho sognato durante 15 anni che Víctor arrivava come sempre allo stesso posto dove noi provavamo in Cile. E lui arrivava, si fermava dietro la porta a sentire. E noi sentivamo che qualcuno ci sente, ci vede di fuori, no? Lo facevamo passare da lui. E lui è un po' timido, no? Ci chiedeva qualcosa, ci mostrava una melodia, magari una canzone che ha fatto. E questo sogno continuava. Lui arrivava, chiedeva le stesse cose, mostrava delle sue creazioni. E facevamo dei progetti futuri. E fino a un certo punto c'era una nuvola così con il vento e spariva. Ossia, io sapevo che non c'era più, però mi rifiutava a accettarlo. Questa è la conclusione che ho fatto dopo che ho sognato tantissime volte queste cose, sono arrivato in Cile finalmente, l'88, e mi trovo lì in una grossa manifestazione, perché quando noi siamo arrivati lì c'erano migliaia di persone all'aeroporto, pieno di bandiere, e ci hanno portato a una popolazione povera dove ci aspettavano oltre 10.000 persone in una piazza, e lì ci aspettava Joan Jara con un fiore rosso. E quando arrivo io le dico, l'abbraccio, la saluto e le dico: e Víctor? E lei mi guarda così come: cosa succede a questo, no? E Víctor è morto, mi ha detto. E io da quel momento ho sentito che per me Víctor era morto, ho accettato finalmente questa idea di che lui fosse morto, perché mai ho sognato un'altra volta. Questo sogno è sparito pure. Come mai avete deciso di recuperare la musica folclorica, la musica quella tradizionale, la più legata alle tradizioni popolari? Noi eravamo preoccupati che nel nostro paese la musica popolare, la musica di radice folclorica, cioè la identità musicale del popolo, non aveva diffusione. Allora noi abbiamo detto: perché non facciamo questa musica e così almeno recuperiamo questo patrimonio che è identità, no? E così che è nato l'amore per la musica andina. E poi chiaramente col tempo, la militanza, i lavori, altri compagni, collaborazione, abbiamo aperto un po', diciamo, l'arco musicale e abbiamo diventato un gruppo rappresentante dell'America Latina culturalmente. Poi siamo arrivati in Italia, chiaramente siamo arrivati in un momento opportuno per voi, perché con la solidarietà che avete svolto con il Cile, vi avete anche procurato una coscienza in la gente che si interessava in partecipare per questo gruppo, sentendo questo gruppo magari si svegliava dentro qualcosa, facevano la sua contribuzione o almeno si avvicinavano a un progetto politico. E questo è stato il bello, che noi abbiamo aiutato in questo senso agli italiani per creare una coscienza interiore verso la sinistra. E questo io penso che sia un contributo molto importante. Io ho letto un articolo del Walter Veltroni dove ringrazia l'Intilimani per aver contribuito alla formazione politica della gioventù di quel periodo. E questo è bello, perché il nostro contributo è stato non soltanto nello politico, ma anche nel gusto musicale. Noi abbiamo seminato in questi 15 anni di esilio e l'amore per questa musica. Noi abbiamo iniziato solo copiando dei dischi la musica che ci piaceva con lo stesso arrangiamento, siamo stati un anno così, però dopo viene la voglia di fare la propria intervenzione, come ricreo quella canzone che mi piace. E così abbiamo cominciato a sviluppare, poi conoscendo ogni tanto gli strumenti diversi in America Latina, ormai eravamo già avviati a un sentimento latinoamericanista, no? Noi abbiamo contribuito con tutto quello che guadagnavo per i dischi, lo abbiamo dato direttamente alla gioventù comunista. Non so quanti milioni, però è tanto soldi. Perché noi volevamo tornare. Questo serve per pagare tanta gente che deve essere lavorando in Cile clandestinamente. E questo è stato il nostro compito, aiutare economicamente, però più che quello, aiutare a aprire la coscienza, a chiedere solidarietà, a appoggiare al Cile democratico, che poi c'era anche la rappresentanza, stava a Roma, tutti i partiti dell'Unità Popolare rappresentati in l'ufficio Cile democratico. E noi eravamo chiaramente la voce che portavamo, col canto si arriva più che un discorso, con una canzone, magari con la presentazione nostra, sempre è stato una cortina musicale importantissima per arrivare alla gente, per captare questa solidarietà, no? Ogni tanto in Cile ci chiedevano, i compagni dicevano: vogliamo un fax o una lettera di questo artista. Io mi ricordo, ho parlato con 5 artisti per chiederle un appoggio, perché c'era un'attività in Cile culturale o politica, e sono stato con Claudio Cardinali, Monica Vitti, è stato con Vittorio Gassman, con Sataflori, che è un grande amico, con Gian Maria Volontè, va bene, con tanti altri che vi avevano chiesto di scrivere, così noi mandavamo là. Era importantissimo per loro l'appoggio di tutta questa gente conosciuta. Il nostro compito è stato quello di appoggiare, di captare solidarietà, di aiutare internamente la gente, perché magari quando usciva qualcuno lo portavamo qua, fra noi, poi continuavamo a Moscou o alla Repubblica Democratica Alemana, e sempre siamo stati come ambasciatori proprio. Come ti sei sentito al ritorno in Cile? Io lo stesso giorno che sono arrivato in Cile, Ho detto, devo cominciare a fare qualcosa per superare i problemi. Ad esempio, molta gente fino adesso non entra allo Stadio Nazionale, che è stato un campo di concentramento. Però io ho detto, io devo vivere qua, se no comincio subito a intentare una vita normale. Sarà difficile. Lo stesso giorno che sono arrivato, dopo il pranzo a casa della famiglia Coulon, ho letto il giornale e ho detto, giocava alle 4 del pomeriggio la Università del Cile con Colo-Colo, che sono i rivali più forti, no? E io mi sono alzato e ho detto, chi mi accompagna allo stadio? Nessuno. Sono andato da solo allo stadio. E ho visto una partita, magari, neanche mi ricordo la partita, guarda, però sì, ho superato il trauma subito. Come hai ritrovato i cileni al tuo ritorno in patria dopo 15 anni di esilio? Tutti fanno per se stesso, cedesco, non hanno fiducia nell'altro, non si parlano, non si salutano nella stessa palazzina, nessuno. E questo è il brutto perché la giunta militare ha cambiato la gente veramente, l'ha fatto diventare egoista, sospecciosa. E quello a me, guarda, è una cosa bruttissima, perché anche i compagni miei, dell'università che li ho trovato sono cambiate tantissimo. Magari perché io sono un uomo molto, diciamo, conosciuto come cantante. Non mi hanno cercato, però sì, mi hanno posto un po' di attenzione, hanno chiacchierato con me, però io mi sono reso conto che non c'era nessun altro interesse che la curiosità di vedere a questo come è diventato. Però dopo di cui niente, niente, neanche una telefonata. Solo così tutti cambiati, guarda, è bruttissimo. Sono riusciti a dividere proprio la gente. Nel 1997 Max Berru ha lasciato il gruppo degli Intellimani pur rimanendone un componente dell'associazione culturale che vuole promuovere la musica andina, la musica del Latino America, la musica nueva, come è stata chiamata in quel periodo. Oggi ha ricominciato una carriera da solista e in parte con Jorge Coulon, anche lui fondatore degli Intellimani, dove ripercorrono le tappe fondamentali della creazione degli Intillimani. Ambedue sono usciti dal gruppo e ambedue si esibiscono sia in coppia e sia da solista. Ringraziamo il nostro ospite Max Berru per i suoi racconti e diamo appuntamento ai nostri ascoltatori per la prossima settimana. Ciao!